ammetto che tutto sia un copione già scritto e non detto. L'autore del soggetto, penso ai tanti andati lì sperando di manifestare, ai giovani picchiati armati solo di ideali. Ma quale diritto di sfilare se un tonfo alle spalle ti manda all'ospedale? Io sono quel dottore piegato dal dolore che prega e piange da già lo sguardo del terrore. Io sono quel ragazzo che fugge dalla piazza in sette, lo raggiungono e gli spezzano le braccia. Vedo camionette pazze contro muri di persone che fuggono smarrite senza dazio.